Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tre scosse di terremoto in rapida successione nel centro Italia, da Amatrice crolla anche il campanile, sisma sentito fortissimo a Roma, evacuate molte scuole, chiusa la metropolitana per precauzione. E le zone colpite sono quasi completamente isolate dalle nevicate delle scorse ore, verifiche difficili, l'appello da Teramo, aiutateci, nelle Marche scatta anche l'allarme valanghe. Il governo segue la situazione, mentre il Premier è a Berlino per l'incontro con Merkel. Al centro dei colloqui, i conti pubblici e le accuse della Germania sulle emissioni di Fiat Chrysler. L'esercito iracheno annuncia la presa della parte est di Mosul, roccaforte dell'ISIS. L'offensiva sulla città era iniziata a metà ottobre. Immigrazione, scontri e una manifestazione nel centro di Bagnole di Sopra, in Veneto. Nel lab ci sono circa 1000 persone. Oggi Minniti presenta il nuovo piano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, anche se volete, dalle zone colpite dalle nevicate delle scorse ore e del terremoto, magari qualcosa riusciremo a leggere in onda. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere per una puntata che, come avete sentito dai titoli, toccherà anche altri temi, ma sarà concentrata essenzialmente su quello che sta succedendo nel centro Italia. Vediamo innanzitutto di fare un punto generale e lo facciamo con Raffaella Calandra. Raffaella, eccoti di nuovo. Sì Simone, eccoci qui di nuovo. Il quadro è questo: gente che spala con le mani anche per uscire da case bloccate, treni bloccati, strade interrotte e dei crolli nei comuni già colpiti dal terremoto di agosto e fine ottobre. Tre scosse di terremoto di magnitudo superiore al quinto grado della scala Richter, come ricordavi, creano il panico tra Umbria, Lazio e Marche. Crolli si sono registrati a Campotosto, Laringo e Poggio Cancelli. Siamo nell'Aquilano. Crolla definitivamente il campanile di Amatrice, distrutta dal terremoto di fine agosto. Qui dove la vera emergenza oggi, dice a gran voce il sindaco, è soprattutto la neve. La neve che è copiosa nei giorni scorsi è caduta in questa zona, soprattutto dalle Marche, l'Umbria e l'Abruzzo in particolar modo, e che aveva già reso isolati diversi comuni, sta diventando ora il problema principale, perché rende ancora più difficili le operazioni di soccorso e anche per cercare di raggiungere quante persone sono risultate più isolate in alcune frazioni di questi comuni, ma soprattutto i tanti allevatori che non hanno mai potuto lasciare queste zone distrutte dal sisma proprio per continuare le loro attività. Alcune 12 risultavano dispersi, ma poco fa è arrivata la notizia che sono stati rintracciati la maggior parte, mentre di 3 allevatori ancora non si hanno tracce in questo momento. Dicevamo anche di un treno che è rimasto bloccato nel comune di San Ginesio, mentre Trenitalia sta continuando anche a effettuare dei controlli su tutta la rete proprio perché ci possono essere delle difficoltà. Molti sindaci, come abbiamo sentito anche poco fa nella diretta che c'è stata anche all'interno della trasmissione Melog, invocano l'arrivo di mezzi e di aiuto per cercare di liberare soprattutto le strade che sono coperte dalla neve, e chiedono anche l'intervento dell'esercito. Dunque la situazione è questa: ci sono dei crolli, non risultano in questo momento dei danni a delle persone, ma c'è una situazione di grande precarietà, con un allarme anche valanghe che poco fa in diretta il sindaco di Ussita ci ha confermato, ma che rende tutto più complicato ora che queste 3 scosse di terremoto così forti hanno rinnovato la paura della sisma. Simone. E grazie dunque a Raffaella Calandra per questo punto generale. Ovviamente di tutto questo torneremo a parlare, continuiamo a parlare in questi minuti, più avanti sentiremo ovviamente delle voci dal territorio. Intanto vi voglio riportare questo racconto drammatico che arriva dalle agenzie, da un paese che si chiama Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Una donna, una ragazza che ha rilasciato una testimonianza all'ANSA, dice: siamo per strada sommersi dalla neve, non riusciamo nemmeno a scappare, le automobili non possono muoversi per via della neve, continuano ad esserci scosse e la gente urla per strada, cerco inutilmente di contattare mia madre che si trova in una struttura di Montereale. Quindi sono le due questioni, come avete capito, che si sommano. Un punto tra l'Umbria e le Marche con Daniele Morini. Daniele, eccoci, buongiorno. Sì, ecco, buongiorno Simone. La stessa situazione si registra appunto, come dicevi tu, anche tra Umbria e Marche. questo problema della neve che si mescola a tutti i disagi e ai danni già dei terremoti di fine agosto e fine ottobre. Naturalmente sono ancora in corso controlli e verifiche, perché non è nemmeno semplice. Sotto una coltre che in alcuni casi raggiunge gli 80, i 100 centimetri di neve, capire che altri danni si sono verificati in queste ore. Di certo ci sono i massi che sono crollati lungo le strade di montagna, ad esempio due grossi massi sono crollati sulla strada tra Visso e Ursita, di fatto la circolazione quindi è resa molto più difficile, quella dei soccorritori innanzitutto, proprio perché i residenti sono in gran parte in zone o lungo il litorale marchigiano o quelli umbri nella zona del lago Trasimeno. Paura per gli allevatori. Per quanto riguarda le scuole, in queste ore si sta decidendo se prolungare le chiusure in quei comuni dove erano già chiuse per neve addirittura fino al fine settimana, o dove sono state evacuate stamattina, di valutare anche lì se fare chiusure preventive sia per il terremoto che per il maltempo. Anche dall'Umbria e dalle Marche si invoca l'intervento dell'esercito. Linea allo studio. Grazie anche a Daniele Morini per questo aggiornamento. Una serie di scosse di terremoto, e poi torneremo anche nelle zone più colpite, che si è sentita fortissima anche a Roma, dove alcune scuole sono state evacuate. Siamo in linea con Giorgio Stamatopoulos dalla capitale. Giorgio, eccoci, vai. Buongiorno, sì, sono decine le chiamate arrivate alla 112, il numero istituito per le emergenze, nessuna richiesta di soccorso, ma tanta paura nella capitale, dove già dopo la prima forte scossa arrivata intorno alle 10:20 nelle scuole sono scattate le prime misure precauzionali, e poi nella maggioranza dei casi è arrivato l'ordine di rimandare i ragazzi a casa. L'evacuazione è stata decisa dai presidi dei singoli istituti che dopo la seconda e la terza scossa avevano già portato i ragazzi nei cortili, e poi appunto hanno deciso per questa misura definitiva. Anche l'Università Luiss ha optato per l'evacuazione, mentre un po' in tutta la capitale, da Trastevere a San Giovanni, dall'Esquilino al Nuovo Salario, scuole elementari ma anche medie e licei appunto hanno seguito questa medesima procedura. Nessun input che è arrivato direttamente dal Campidoglio, ma tutte decisioni, quelle che vi ho riassunto, prese appunto dai singoli istituti in completa autonomia. Evidenti le ripercussioni anche sul traffico cittadino e un po' di panico generalizzato per via del fatto che ovviamente i ragazzi, i minori, non possono lasciare gli istituti se non con la presenza del genitore o con qualcuno che abbia la delega, quindi operazioni molto lunghe e farraginose che comunque stanno andando in via di definizione. La situazione in questo momento è decisamente più tranquilla, gli istituti comunque rimangono aperti ed accolgono i ragazzi appunto che non sono riusciti a raggiungere i propri genitori e che aspetteranno il normale orario di chiusura, di fine delle lezioni. Per il momento da Roma è tutto. E grazie dunque a Giorgio Stamatopoulos. Ci sono stati anche molti problemi su una serie di linee ferroviarie, più avanti ci collegheremo proprio con Rete Ferroviaria Italiana per avere un quadro preciso della situazione. Intanto, sempre su Roma, possiamo dire che è stata chiusa la metropolitana in via precauzionale. Teresa Trillò, buongiorno, vai. Sì, buongiorno, ciao Simone. Qui la situazione sta tornando alla normalità. Le scosse di terremoto si sono sentite benissimo, sia in centro sia nelle zone periferiche. C'è stata molta confusione con tanti gruppi di WhatsApp di genitori, degli alunni, colleghi di ufficio, amici che si scambiavano le informazioni sulla situazione in tempo reale. Al momento il comune ha deciso di disattivare i varchi per le zone a traffico limitato del centro storico per agevolare la circolazione, visto che la metropolitana appunto è stata chiusa. Qui però la situazione sta tornando alla normalità, perché la linea A sta riaprendo, la linea B è ancora chiusa per verifiche tecniche, e noi siamo stati a Termini. I cancelli fino a poco tempo fa erano chiusi, erano sbarrati e non c'era nessun cartello o personale che informavano le persone in attesa. Ma sentiamo cosa ci hanno raccontato Isabella e Simone, erano lì in attesa davanti ai cancelli della metropolitana, e poi vi restituisco la linea. Da quanto tempo è chiusa la metropolitana? Mezz'ora, 40 minuti più o meno. Ma nessuno vi ha avvisato? Lei era prima di me, quindi ha visto prima nessuno. C'era un signore, ma dopo è andato via perché c'era troppa gente attorno e quindi ha preferito scappare che dare spiegazioni. Poi è tornato dopo una decina di minuti, hanno un attimo aperto, però hanno richiuso subito. Nomi? Isabella. Simone. Dunque, questo il quadro anche dalla capitale. Noi adesso passiamo per un attimo alle altre notizie, poi torneremo sulle questioni che riguardano il terremoto e l'ondata di maltempo che sta colpendo il centro Italia. Ci collegheremo tra l'altro col presidente della regione Abruzzo, cercheremo di collegarci col sindaco di Teramo, faremo un punto su quelle che sono le ferrovie interrotte o dove si stanno effettuando delle verifiche. Andremo anche tra l'altro a Pescara, cercheremo di fare un punto sulla situazione nel Lazio con il presidente della regione Zingaretti. Nel frattempo, se avete testimonianze e segnalazioni da mandarci, c'è il numero 349-238-6666 per WhatsApp e per gli SMS. Come si diceva, passiamo alle altre notizie, anche se è certamente con un occhio a quello che sta succedendo nel centro Italia, che in questi minuti il presidente del Consiglio Gentiloni incontra Angela Merkel, seppure ovviamente al centro dell'agenda c'è ben altro. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, il presidente del Consiglio Gentiloni è da questa mattina a Berlino, dove è stato accolto dalla cancelliera Merkel, con la quale ha avuto un bilaterale poco dopo le 11, ma naturalmente è in costante contatto con l'Italia e con la Protezione Civile per seguire l'evoluzione delle forti scosse di terremoto che hanno appunto colpito l'Italia centrale. Gentiloni ha chiesto subito al ministro della Difesa Pinotti un ulteriore impegno dell'esercito assieme alle strutture operative già presenti per garantire, ha detto, la massima presenza e prossimità dello Stato nei luoghi già colpiti dal sisma e oggi interessati dalle nuove scosse. Naturalmente sentiremo tra poco le sue parole, perché dovrebbe esserci una conferenza stampa che ancora non è cominciata. Tanti poi gli altri temi di questo incontro, che arriva nel pieno delle polemiche su FCA, al centro da giorni di rimpalli e accuse tra Roma e Berlino dopo la dura presa di posizione del Ministero dei Trasporti tedesco, che ha chiesto di richiamare Fiat 500, Doblò e Jeep Renegade. La linea del governo è comunque chiara: rivendicare la correttezza dei test e la loro conformità alle norme europee. Poi la Brexit, il tema dei conti pubblici con la richiesta di Bruxelles all'Italia di una manovra di correzione da oltre 3 miliardi di euro e l'inizio dell'era Trump. Insomma, non proprio un incontro da protocollo come nei tradizionali tour che si fanno dopo che un premier viene eletto, arriva a Palazzo Chigi, ma un bilaterale davvero denso di temi. A te, Simone. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Di Europa ha parlato anche il ministro della giustizia Orlando nella sua relazione al Parlamento. Basta schermaglie, dice. Sentiamo le sue parole. Si continuano a reiterare schermaglie e ad agitare stereotipi di altre stagioni. Il rischio è che rimaniamo a fare la guardia ad un bidone che si va svuotando. Qui, a mio avviso, si gioca la credibilità di tutte le giurisdizioni nazionali. Crescono i profili internazionali del contenzioso civile, che sempre più cerca di sottrarsi alle maglie della giurisdizione pubblico-statuale. Cresce la criminalità trasfrontaliera in ambiti quali il terrorismo, il traffico di stupefacenti e di armi, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica, la contraffazione. La risposta a questi fenomeni non può più essere soltanto nazionale. Per questo abbiamo sostenuto con forza nei mesi scorsi il progetto di istituzione di una procura europea che potesse avere in prospettiva competenza anche in materia di terrorismo e criminalità organizzata. A chiudere questa prima parte della trasmissione, poi torneremo a parlare della situazione del terremoto e del maltempo, le notizie che arrivano dall'estero, a partire da quella che riguarda l'Iraq, dove le forze militari irachene hanno annunciato di aver preso il pieno controllo della parte orientale della città di Mosul, roccaforte dell'ISIS. Siamo in linea con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che valutazione possiamo dare di questo annuncio? Bene, l'iniziativa è interessante, ma dobbiamo sempre tenere presente che questa offensiva è cominciata il 17 ottobre scorso, quindi da oggi a praticamente gennaio sono passati alcuni mesi e l'offensiva ha potuto, come dire, prendere il controllo solo della parte orientale di Mosul. Dall'altra parte c'è il Tigri e il Tigri praticamente spezza la città in due e poi c'è la città occidentale che è ancora sotto il pieno controllo del califfato. Tra l'altro tutti i ponti sul Tigri sono stati distrutti e non è stato ancora peraltro conquistato l'aeroporto a sud di Mosul, cioè a Mamali, e questo dice quanto sia ancora lunga la strada per poter espugnare una delle roccaforti o forse la principale roccaforte del califfato. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questo punto, per questa analisi così rapida. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, dove molti degli aggiornamenti riguarderanno naturalmente anche le zone colpite dalle forti nevicate di queste ore e dal terremoto. E poi di terremoto e di queste nevicate continueremo a parlare, ci collegheremo tra gli altri col presidente della regione Abruzzo per avere un quadro generale, posto che le testimonianze che ci stanno arrivando in queste ore anche via WhatsApp dai nostri ascoltatori sono drammatiche. Un'ascoltatrice ci racconta di una sua amica che chiede aiuti urgenti, senza luce, reti telefoniche, sepolti dalla neve col terremoto. Si tratta di Bellante, siamo in provincia di Teramo, auto intrappolate, non sanno dove andare, ne hanno contatti col mondo e ci sono problemi con anziani e bambini. Come capite, situazione molto difficile, torniamo a parlarne tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione delle scosse di terremoto e della difficoltà a causa delle forti nevicate, tra un attimo ci torneremo. Abbiamo parlato dei colloqui tra Gentiloni e Merkel, abbiamo parlato dell'esercito iracheno che ha annunciato la presa della parte est di Mosul. Adesso appunto torniamo nelle zone colpite dal terremoto e dalle nevicate. Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Qualche ascoltatore, forse non è il momento delle polemiche, però qualche ascoltatore ci accusa, dice aumentate il panico al posto di rassicurare, ma mi sembra di capire, Presidente, che la situazione sia effettivamente drammatica da voi. C'è una situazione difficile perché noi abbiamo avuto un problema di nevosità particolare che ha colpito tre province, la provincia di Chieti, la provincia di Teramo e la provincia di Pescara. Poi con una certa naturalezza ha colpito dopo anche la provincia dell'Aquila e la nevosità con questa pesantezza e con questa quantità ha generato a cascata problemi anche alle linee elettriche, prima alla rete dell'alta tensione e poi alla rete distributiva. Terna ha recuperato tutta la rete dell'alta tensione, con oggi ha finito le centrali, le cabine di alta tensione e adesso Enel sta riaccompagnando la distribuzione. Noi siamo passati da 200.000 utenze senza servizio, senza copertura, a 100.000 questa mattina e ci hanno garantito che entro questo tardo pomeriggio, la prima serata, scenderemo a 40.000 utenze senza servizio. A fronte di questo però si stanno distribuendo generatori, gruppi elettrogeni che generano in autonomia l'energia elettrica. Abbiamo però delle difficoltà in alcuni comuni della provincia di Chieti, in alcune frazioni di città importanti tipo Lanciano, in alcuni centri della provincia di Teramo che non sono raggiungibili sul piano della normale viabilità per la quantità della nevosità. Certo. Dico per esempio Atri, Cellino Attanasio, oppure ancora Castellalto o alcune frazioni di Civitella del Tronto. Ci segnalano Bellante per esempio. Appunto. Anche Bellante ha avuto delle difficoltà. Abbiamo chiesto aiuto con mezzi speciali sia all'esercito che ha mandato risorse umane specializzate, sia ad ANAS e autostrade. Io mi sono rivolto anche al ministro della difesa, al ministro delle infrastrutture per avere questi supporti. In aggiunta a questo c'è stato questa mattina anche questo sì, l'elemento di straordinario dolore di un'ulteriore scossa sismica che ha colpito l'Alto Aterno aquilano con Montereale, sì, Campotosto e Amatrice nel Lazio, sì, e ancora Capitignano. Allora, Presidente, su questo fronte avete segnalazioni di danni? Grazie a Dio no. Però si sono combinate in queste tre realtà la neve fuori che non consente addirittura di uscire, la neve sui tetti che rischia di sfondare i tetti e anche il terremoto con una invasività, con una pervasività, con un livello di, diciamo, di preoccupazione dal punto di vista della condizione psicologica che sta creando delle difficoltà alle popolazioni dell'Alto Aterno, tant'è che anche lì noi manderemo dei mezzi per togliere intanto la neve, delle frese di ANAS e di autostrade per togliere la neve e rendere raggiungibili questi luoghi. Allora io la ringrazio, grazie per questo punto a Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo. Ovviamente è tutto in evoluzione, ovviamente, quindi nelle prossime ore magari ci riserviamo di richiamarla. E saluto intanto Luca Zingaretti, anche lui presidente di regione ma del Lazio in questo caso. Zingaretti, buongiorno anche a lei. Buongiorno Nicola. Allora, sì, pardon. abbia pazienza, Nicola Zinger, succede. Senta una cosa, ci segnalano tra l'altro frazioni di Amatrice con famiglie bloccate, situazione ancora difficile nelle stesse zone colpite ad agosto sostanzialmente. Dunque, la situazione situazione da stamattina, a prescindere addirittura dalle scosse, è proprio quella di garantire di fronte a una nevicata eccezionale l'accesso a tutte le frazioni. Ovviamente ora è più urgente per evitare che le persone che hanno paura di rimanere nelle case rimangano isolate o di fatto imprigionate dentro delle aree. Quindi stanno lavorando tutte le strutture per liberare questo aspetto in una situazione in effetti eccezionale, perché nevica da molte ore e sembra che le previsioni dicono che sicuramente anche la giornata di domani sarà una giornata di neve. Che è la vera emergenza, come ha detto il sindaco di Amatrice, cioè ad Amatrice c'è stato un altro crollo, ma in realtà il vero problema è proprio la neve, mi sembra di aver capito, no? È la neve e si accentua però questa percezione delle strade, perché le persone, i cittadini hanno paura di rimanere dentro le case, quindi è un combinato disposto tra una nevicata eccezionale e oggi queste quattro scosse consecutive che porteranno, e già ci stiamo attrezzando, molte persone magari a chiedere un'opzione di sistemazione in albergo per alcuni giorni. Comunque la protezione civile regionale e nazionale già si sta attivando per fare in modo che coloro che lo vogliano si possano spostare. In altri casi, penso al comune di Posta, gli anziani, sempre per lo stesso tema del timore, della paura, verranno ospitate in alcune scuole che si stanno attrezzando per la notte, e così in altri comuni che, ripeto, vivono questo combinato disposto che in effetti è incredibile. Avete bisogno dell'esercito nel Lazio? Ha parlato con Pinotti? No. Guardi, per quanto riguarda il coordinamento nazionale sotto l'egida della Protezione Civile Nazionale, con la quale siamo in contatto soprattutto per rafforzare, e lo stanno facendo, la presenza di mezzi spalaneve, perché è evidente che in questa almeno 24 ore questa concentrazione di maltempo e nevicate sta colpendo anche quella zona della nostra regione. La ringrazio. Grazie a voi. Zingaretti, per essere stato con noi. Il presidente della regione Lazio e un altro presidente di regione, questa volta delle Marche, Luca Ceriscioli. Eccoci qua. Ceriscioli, come vanno le cose? La situazione è pesantissima. Noi siamo in emergenza dal 24 agosto, un'emergenza che non finisce più e che trova con le scosse di oggi insomma una riacutizzazione molto forte. Ha nevicato tantissimo, fino a 2 metri, sono 3 le aree interne delle province colpite, decine di comuni che stanno chiedendo un aiuto per sgomberare la neve. Abbiamo chiesto ovviamente a tutti, all'esercito, alle altre regioni, a tutte le ditte private disponibili, perché con le frazioni isolate, con 3 scosse molto forti, perché sono sentite quasi in tutta la regione, e si è creata una situazione difficilissima da gestire in una con strutture che sono ormai messe a dura prova da tantissimi mesi. Abbiamo cercato i sindaci, una delle emergenze è quella dell'energia elettrica. Abbiamo stimato circa 30.000 marchigiani che in questo momento non hanno energia elettrica, anzi non ce l'hanno da più di 48 ore. E anche qui serve qualcosa di straordinario, perché mettiamo insieme la mancanza di energia elettrica, la neve che rende difficili gli spostamenti e ha isolato tantissime frazioni, addirittura fino ad Ascoli, insomma la città di Ascoli avere nella zona sud frazioni isolate, l'isolamento, la neve, le scosse sismiche che spingono le persone ad andare fuori casa. Siamo in una situazione a dir poco catastrofica. E anche la novità del rischio slavine. Abbiamo dovuto lanciare questo allarme perché il terremoto, con i cumuli di neve importanti, dicevo prima, precipitazioni fino a 2 metri, bordo strada, amplificano e creano anche questo rischio. Allora, un'ultima domanda, presidente Ceriscioli. Abbiamo notizie dalle agenzie di 3 allevatori dispersi nella zona di Arquata del Tronto. Nessuno è disperso, nel senso che anche la notizia di questa mattina non era confermata. Noi abbiamo chiamato proprio al cellulare i vari allevatori della zona, ci hanno risposto, il gruppo era alcuni a San Benedetto, altri sul posto, certo anche loro hanno i problemi perché alcuni sono isolati con il discorso della abbondante nevicata, ma nessuno è disperso. La ringrazio. Grazie a Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, che ci ha dato anche questa rassicurazione. Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo. Torniamo dunque in Abruzzo. Brucchi, eccoci. Buongiorno. Salve, anche se, buongiorno, buongiorno. Anche se non penso che sia ottimo per voi, tutt'altro. Situazione molto difficile, mi sembra aver capito, no? No, io direi situazione difficilissima. Insomma, noi cominciamo fino adesso abbiamo fatto con le nostre forze, ma adesso abbiamo bisogno di aiuto. Perché noi qui abbiamo oltre 40.000 utenze senza luce, famiglie che sono da 3 giorni senza luce, famiglie che adesso hanno subito 3 scosse di terremoto, di cui 2 particolarmente violente. Io ero in macchina per andare a liberare un paese ancora sotto 2,5 metri di neve con l'esercito, la macchina, le dico, che non riusciva ad andare dritta, quindi davvero momenti difficili. Abbiamo l'emergenza neve, non riusciamo a raggiungere ancora alcuni paesi che sono isolati. C'è stata poco fa una valanga ai Prati di Chivo che ha bloccato un albergo con le persone che ci sono dentro. Abbiamo l'emergenza allagamenti perché la neve si sta sciogliendo e tutte le caditoie sono ghiacciate, per cui l'acqua non va via, e ci stiamo attivando con tutto quello che possiamo, ma abbiamo bisogno. Io adesso ho chiesto aiuto a Biella, che ci manderà 6 lame e 2 turbine, ma noi insomma davvero qui la situazione diventa difficile. La gente sta scappando da Teramo e va verso la costa perché preferisce andare al mare, perché le scosse sono state violente. Noi ci siamo dovuti trasferire in una struttura del comune come protezione civile, che prima eravamo in prefettura. Cioè, le assicuro, una situazione davvero davvero pesante. Ci sono problemi negli ospedali, insomma, è davvero. Fino adesso abbiamo fatto con le nostre forze, sono 3 giorni, 2 notti che stiamo in giro dalla mattina alla sera, però insomma io credo che adesso qui insomma il governo deve intervenire, deve fare qualcosa. Non possiamo essere. Ma l'esercito è arrivato da voi, Brucchi, oppure no? No. Sì, l'esercito è arrivato, è arrivato un mezzo per la neve, un mezzo spalaneve, e poi dovevano arrivare dei militari, ma che poi sono stati dirottati su altri territori. Noi abbiamo soltanto come esercito adesso un mezzo spalaneve che è andato e sta in una frazione, ha liberato una frazione con 21 famiglie, con 3 bimbi piccoli che erano isolati da 2 giorni senza luce, quindi senza riscaldamento. Insomma, davvero la situazione è di massima emergenza, perché poi la neve e questo terremoto, il terremoto con la neve non aiuta, perché anche la gente che vuole uscire di casa ed è bloccata in casa non riesce ad uscire. Qui continua a nevicare, piove in città, ma nelle frazioni intorno basta alzarsi di 100 metri, 200 metri e nevica. Insomma, la situazione è davvero pesante. La ringrazio. Grazie a Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo, che contiamo eventualmente di ricontattare nell'arco della giornata. Gianpiero Strisciuglio, direttore esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno, benvenuto Strisciuglio. Buongiorno, grazie. Allora, eccoci qua. Ci dà un quadro della situazione per quanto vi riguarda, perché sappiamo che ci sono una serie di linee interrotte anche solamente per verifiche. Sì. Buongiorno, sì, in questo momento è in attività il nostro personale della manutenzione, che sta facendo le verifiche sulle linee ovviamente ricadenti nella zona colpita dal terremoto. Abbiamo sospeso la circolazione, ma già riattivato la circolazione sulle linee Orte-Farasabina, Viterbo-Attigliano, Teramo-Giulianova e Civitanova-Albacina. Quindi a fronte delle verifiche del nostro personale la circolazione è ripresa su queste linee. Sono al momento sospese, con attività di verifica in corso da parte del nostro personale, le circolazioni sulle linee Orte-Falconara, Foligno-Terontola, Ascoli-Porto-D'Ascoli. Queste 3 linee contiamo di restituirle ovviamente alla circolazione nel primo pomeriggio, quindi a fronte del termine dell'attività di scorta. Permarrà probabilmente più a lungo, fino al tardo pomeriggio, la sospensione della circolazione sulla linea Sulmona-Terni e Sulmona-Avezzano-Guidonia. Ovviamente noi, se posso cogliere l'occasione, invitiamo, bravo, sulla restante rete la circolazione ferroviaria è ok. Noi invitiamo ovviamente le persone a informarsi in tempo reale attraverso il nostro sito FS News, dove sì, noi collochiamo istantaneamente le informazioni sulla circolazione ferroviaria e sulla disponibilità delle linee. In questo momento ovviamente la nostra sala operativa nazionale, le sale operative territoriali sono coinvolte, sono, diciamo, presidiano l'argomento, presidiano il tema, sono assolutamente in contatto con la protezione civile, sia per le informazioni meteo che ovviamente per le informazioni legate all'evento sismico. Dunque fsnews.it per avere informazioni se vi dovete mettere in viaggio e siete nelle zone colpite da queste nevicate così forti. Gianpiero Strisciuglio, direttore esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana, la ringrazio. Ci fermiamo alla pausa per la borsa, ci ritroviamo subito. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: tre scosse di terremoto in rapida successione nel centro Italia, da Amatrice crolla anche il campanile, sisma sentito fortissimo a Roma, evacuate molte scuole, chiusa la metropolitana per precauzione. E le zone colpite sono quasi completamente isolate dalle nevicate delle scorse ore, verifiche difficili, l'appello da Teramo, lo avete sentito, aiutateci. Nelle Marche scatta anche l'allarme valanghe, smentita la notizia che ci siano allevatori dispersi. Il governo segue la situazione, il premier intanto è a Berlino per l'incontro con Merkel, al centro dei colloqui conti pubblici e le accuse della Germania sulle emissioni delle Fiat Chrysler. L'esercito iracheno annuncia la presa della parte est di Mosul, la roccaforte dell'ISIS, l'offensiva sulla città era iniziata a metà ottobre. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo dunque per tornare anche in questa ultima parte della trasmissione a cercare di fare un punto su quello che sta succedendo in alcune zone del centro e del centro-sud Italia colpite dal terremoto di questa mattina. Ci sono state tre scosse in rapida successione, una tutte sopra i 5 di magnitudo, la più forte di 5.5, e queste scosse si sono sommate a una situazione molto difficile per il maltempo e per le forti nevicate che stanno colpendo questa parte dell'Italia, in particolare l'Abruzzo, come vi abbiamo raccontato poco fa, sentendo anche il sindaco di Teramo e il presidente della regione Abruzzo, tanto che lo stesso sindaco di Amatrice, città colpita, come sapete, rasa letteralmente al suolo dal terremoto del 24 agosto e che appunto è stata colpita anche dal terremoto di oggi, tanto che è crollato il campanile. La vera emergenza è esattamente la neve, ci sono alcuni paesi e alcune frazioni letteralmente isolate, e la situazione del maltempo è grave in realtà anche sulla costa. Siamo in linea con Marco Alessandrini, che è il sindaco di Pescara. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dove, gli spettatori. Dove da voi il problema è più che la neve sono state le esondazioni, mi sembra di aver capito, no? Beh, la neve quando si scioglie naturalmente si trasforma in acqua, quest'acqua arriva nel fiume il cui livello sale oltre il livello di guardia. Questo ci è stato evidenziato questa notte fin dalle 4:30 dal nostro sistema di sensori, che ha così determinato l'inibizione sin dalle 5 del mattino di un'area golnale. Oggi sono sulla riviera sud della nostra città per verificare come i fenomeni di allagamento presenti qualche ora fa sono cessati, sebbene continui a piovere. Monitoriamo il corso del fiume naturalmente e registriamo che sin qui fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. I danni alle cose li dovremo valutare al termine, diciamo, emergenza, diciamo, maltempo, sì. È atteso un peggioramento peraltro nelle prossime ore e questo naturalmente ci impone ogni È atteso un ulteriore peggioramento, Alessandrini? Sì, mi riferiscono a proposito del fatto che sin dal pomeriggio di oggi ci dovrebbe essere, forse addirittura alle 15, c'è anche una specifica oraria, un peggioramento. Staremo a vedere, comunque in questo momento piove. In questo momento sta piovendo a Pescara. Allora, io intanto la ringrazio, grazie a Marco Alessandrini, sindaco di Pescara, per essere stato con noi. Situazione, come si diceva, difficile in Abruzzo. Il nostro Dario Ricci ha raggiunto a Ripa Teatina l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Palladinetti, che ci dà un po' una rappresentazione della situazione, tanto appunto da come assessore quanto come cittadino. Sentiamo. situazione neve qui a Rivagliatina, che non siamo distanti dal mare, e da Francavilla al mare abbiamo un metro di neve. Un metro di neve per la nostra situazione è una cosa veramente, da 50 anni non si verifica un'emergenza del genere. Stiamo fronteggiando, ma abbiamo grosse difficoltà sulla corrente elettrica. Enel ci deve dare delle spiegazioni. Enel non ci dà delle date certe della riattivazione. Avete sentito anche le scosse del terremoto di questa mattina, immagino? Sì, abbiamo avvertito anche in modo molto netto le scosse di questa mattina. Non ci facciamo mancare nulla, ma noi siamo forti e gentili e continuiamo a lavorare. Questo è dunque una delle tante testimonianze, altre ovviamente ce ne state mandando anche via SMS e WhatsApp. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, strade anch'esse naturalmente interessate da tutto quello che sta succedendo. Poi ci sarà Mario Platero, ci risentiamo alla fine per un breve riassunto su quello che è successo in mattinata e poi per i saluti.